tutto quello lì, è un teatro a Parigi, è da controllare tutto lì, è l'attacco. Si crea rovio per suo motivo, perché non fanno bene, non fanno contatto bene, è tutto lì. Capito? Tutto è dal filotto del baracchino. Il microfono è perfetto. Allora, chiaro che se deve mettere quello lì, deve mettere anche al microfono, capito? Però non c'è niente il microfono, è solo il baracchino, capito? Tu già lo sappiamo adesso. Ok, riprenda tu. Non me la sentirei di mettere il corno, di cambiare il connettore del baracchino, dell'apparato. Farò da 5 a 4, preferisco adattarlo. Pazienza ci vuole pazienza, perché ci sono anche i condensatorini, ci sono all'interno, è attaccata ai fili dell'attacco del baracchino, capito? Alla femmina, l'uscita del microfono, ci sono anche due o tre condensatori, bisogna stare attenti a quello, una volta che si sa com'è, lo fa preciso, vedrà che tutto è a posto, la pazienza ci vuole, pazienza e tempo, tutto lì. Perché sono cattate quelle, non è che tu devi incontrare tutto il circuito, eccetera. No, non è il circuito, ci sono i quattro fili e questi due o tre condensatori, poi non c'è altro. Grazie, sì, non so se è così, allora come è fatto. Se vuoi un po' di pazienza, che ci sbagli, mamma mia. Certo che bisogna stare anche attenti per non distaccare altri figli, perché se ci stacca un figlio dopo magari a trovare un apparecchio in quelle condizioni, a trovare dove si è distaccato, e non è tanto facile, no? Perché soltanto di quei figli non finisce più, capito? Bisogna stare attenti, piano piano, con la calma, e stare piano, e bene le cose, tutto lì. Ok, riprende tra Sero Mario. Io adesso sto uscendo con quello che hai messo mano tua, quel microfono, tutto bene, hanno lampidano le spie della luce e tutto sta funzionando bene. Adesso è già quasi una chita fatto, no? Ma vedrai che non si scarica tanto, si devono scaricare, però non così fretta come prima, capito? Ma vedrai che tutto si è messo a posto adesso. No, il microfono adesso è a posto e dovrebbe essere perfetto, per cui infatti già una guida non si è caricata, vuol dire che è già beccato il tuo tutto lì, va benissimo Mario. Avanti a tu, e beh, il vecchietto. Stavo facendo cosa? Lo saluto, capito? Dire che si affaccia, tanto si affacciava tante volte, tanto bene che si era un bombo, adesso sono almeno due mesi senza sentirlo. Gabba, gabba. Non sto sempre facendo cosa, impegnato. Io poco fa ero impegnato, adesso mi sono liberato. Se c'è da fare sempre c'è da fare, soprattutto quando c'è da fare da casa. Io è già una decina di giorni da quando ho fatto dei lavori, cose varie, c'è mio figlio picchettando i muri, buttando l'intorno a covicchio, i lampadari, e sta facendo l'appartamento che sembra nuovo, sembra. Quindi c'è per te dell'amore da fare. Meglio così, avanti Giovanni. Mario, per fare della spesa, il lavoro, non ti chiedi se c'è il vicino, non ti domandi il vicino, prepara l'assegno e anche la ditto, preparami l'assegno Pami, a fare che vino, il tetto lo sgocco. Ma Mario, te l'ho detto, no, me l'ha fatta questa proposta, ma non ti affacci, tanto dovevi pagare il muratore, e fa una cosa, fai il libretto tuo bancario che c'hai, o qualche depositino in banca, mi stacchi un assegno e me lo dai. Capito, freddo, dai, al tu. Ah, mare, stai quest'anno vegna verde. Vabbè. Quello che ci bisogna fare. Sì, mi ha dato il caffè a pulire la tazza, dai, ci sentiamo dopo magari, dai, per un momento lo chiudo. Ciao, io Maria, ben sentito, salutiamo a tutti. No, Anto, quando ha finito tutto, hanno un regalino anche buono, glielo faccio. Tanto mi ho fatto il calcolo tra una cosa e l'altra. Sempre se chiamo uno a giornata, magari non è che gli paghi la giornata, però già rimarrà contento anche lui. Purtroppo è così. Tanto che è in casa, cos'è l'altro, perché il lavoro che era lui hanno già finito, in attesa che comincino l'altro da una settimana all'altra, sta andando e già tutto il tempo che dovrebbe avere uno per quando sta lavorando. Guarda, tu stai facendo la camera da letto, lo sta aggiustando. No, mi ho cambiato tutte le porte, mi ho cambiato, no? Prima era in colore come me l'avevano dato le case popolari, capito, in bianco, adesso tutto un altro colore. Ti sto dicendo che sembra un appartamento fatto nemmeno un anno. Già lo so, gialle sono le porte che stanno per l'ente popolare. No, le mie erano bianche. Bianche erano le mie. Non so, erano sempre gialle. Erano buone, no. Quelle lì le recupero, quelle porte. La portate giù in giardino, la portate. Adesso come finisce qui? Siccome sotto all'ingresso del portone abbiamo un magazzino, fa un solaio, perché tutta quella roba che c'è in magazzino sembra più di una scuderia, tutto sotto sopra. Fa un piano e ci mettiamo anche la roba dentro. E il magazzino rimane più libero. E noi il magazzino ce l'abbiamo così, soppalco, ma sai quanto è molto comodo, abbiamo messo le porte, così le abbiamo messo, dalle porte vecchie che ci avevamo per fare il soppalco, abbiamo messo dei tubi innocenti che partono da sotto, poi ci sono dei cosi che spuntano così, tipo quei cosi degli scaffali per appoggiare il piano sopra, è tutto fatto a vitti di quelle forti, a bulloni grossi. E abbiamo fatto soffare, poi c'è la motorina che ci sta messo. No, ci vuole, perché, guarda, se dovessi vedere il mio magazzino, tutto, dopo c'è la moto di mio figlio, c'è biciclette, c'è altra roba mobile. A quanto fa entrare una persona? Bisogna camminare romba. Già lo so, già. Ma è molto grande il vostro. Non so quanti metri sono, però già è un po'... è più piccola di una camera normale, là. In circa pure noi così, quanto una stanza. La luce c'è. Sì, c'è la luce, tutto c'è, ho fatto l'impianto per qualche volta che si è dopo il trapano e cose varie, c'è tutto, acqua è vero, acqua non ce n'è. Ma no, il coso dell'acqua non l'hanno fatto. Vabbè, tu dici sia la corrente. Come? L'importante è che ci sia la corrente. Sì, la luce c'è, tranquillissima. E noi ce l'abbiamo. Noi abbiamo avuto anche fortuna perché cioè, ce l'abbiamo sotto proprio. Ok, a tu. È venuto mio figlio, il grande, è venuto con mio nipote, no? Grazie della chiacchieratina, salutami a tutti, che ci sentiamo più tardi magari. Ciao per il momento. Ciao, ci sentiamo.